Respiro. Buon pomeriggio e ben ritrovati da Laura Bettini, nuova puntata di Respiro per la quale prendiamo spunto da un convegno che si è chiuso ieri a Roma. Il tema era pianificazione territoriale e difesa del suolo. A organizzarlo il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il Centro Nazionale Studi Urbanistici. Punto di partenza il 40° anniversario della pubblicazione della relazione conclusiva della Commissione Interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo. Insomma, la cosiddetta Commissione De Marchi. Diamo il benvenuto all'ingegner Giovanni Montresor del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Buongiorno. Ingegnere, dicevamo 40 anni fa la relazione della Commissione De Marchi, poco più di 20 anni fa poi è arrivata la legge 183 dell'89, norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, poi la direttiva acque del 2000, la direttiva alluvione del 2007, insomma l'Italia normativamente parlando sembrerebbe pronta, invece cosa succede? Sì, l'Italia normativamente parlando è effettivamente pronta, anche se forse poi fare qualche precisazione vale la pena di farla anche sull'evolversi, diciamo, di queste della legislazione e della normativa. Il problema poi è la coerenza e il modo in cui si riescono a mettere in pratica quanto delle leggi, che peraltro sono anche buone, riescono ad avere in termini di efficacia. Ma che cosa è frenata appunto l'efficacia di queste leggi secondo? Partendo da 40 anni fa, da quando è uscita la Commissione De Marchi, la reazione della Commissione De Marchi, tutte le competenze erano in capo allo Stato. Poi non possiamo dimenticare che pochi anni dopo c'è stata l'istituzione intanto delle regioni, fino alle cose più recenti, per cui la modifica del titolo quinto della Costituzione, che ha appunto delegato alle regioni molte competenze, tra alcune delle quali anche nei settori appunto di interesse di cui stiamo parlando. Non dimentichiamo anche che c'è stato un passaggio a livello statale di competenze dall'allora Ministero dei Lavori Pubblici al Ministero dell'Ambiente, nel senso che la difesa del suolo è sostanzialmente in capo al Ministero dell'Ambiente attualmente, pur avendo ancora il Ministero dei Lavori Pubblici delle importanti prerogative all'interno della difesa del suolo. Uno dei rilievi che facciamo, dei difetti che notiamo nell'applicazione, diciamo, non solo di quanto sosteneva la relazione della Commissione De Marchi, ma poi appunto delle leggi che lei prima ha citato, è l'eccessiva frammentarietà dei centri decisionali in tema di difesa del suolo. Anche perché purtroppo nessuno rinuncia ai propri spazi. Quindi una volta che si vuole fare un intervento bisogna coinvolgere tutta questa catena? Sì, e forse bisognerebbe fare anche un'altra considerazione importante, che peraltro in nuce c'era già nella relazione finale della Commissione De Marchi. Bisogna fare molto di più cultura della prevenzione e molto meno cultura dell'emergenza. Purtroppo anche le vicende di quest'ultimo mese, i problemi che ci sono stati per le varie alluvioni dimostrano come purtroppo di queste cose si parli soprattutto nei momenti di emergenza. Io ho anche, credo, una spiegazione, purtroppo la prevenzione non fa notizia e non fa immagine. Se noi così la vediamo dal punto di vista di un politico, sia a livelli, diciamo, nazionali ma anche a livelli locali, è molto più facile inaugurare una piazza o un nuovo arredo urbano o una pista ciclabile piuttosto che parlare di interventi di prevenzione, per esempio di una frana. Allora, una delle cose su cui abbiamo battuto molto in questi due giorni di convegno è proprio di cercare di spingere verso una ripresa della cultura della prevenzione, e non perché non si debba essere pronti ovviamente anche nei momenti di emergenza, ma proprio per cercare di fare dei ragionamenti che hanno purtroppo anche dei tempi lunghi, che però hanno anche l'aspetto, anche dal punto di vista economico-finanziario, forse andrebbero rivalutati se si facessimo i conti. Io non sono in grado di darle dei dati precisi, ma certamente quanto si spende per l'emergenza è comparabile a quello che si potrebbe fare con invece interventi fatti di tipo preventivo. Ma è anche a quanto stimano, adesso io ho presente dei dossier che avevo letto dei geologi italiani, l'associazione dei geologi, sì, diceva sì. Comunque anche fare prevenzione sarebbe molto costoso. Da che parte si dovrebbe cominciare? Perché poi dopo il problema c'è, il soldo manca, ecco, diciamo, sì, così un po' schiettamente. Certamente siamo coscienti che non solo in questo particolare momento di crisi, ma in generale, diciamo, le risorse che avranno gli enti locali saranno, diciamo, sempre minori. però proprio per quello bisogna fare una gerarchia delle scelte del modo in cui si vanno a spendere queste cose, quindi, e forse facendo una cultura della prevenzione, affrontando i problemi in anticipo, si riesce anche a fare delle scelte più mirate, più oculate. Faccio un esempio: il problema delle mappe di rischio, pensiamo per esempio al rischio da frane piuttosto che al rischio di alluvioni, necessariamente prendono spesso degli ambiti abbastanza ampi. Se si riuscisse a ragionare più in termini di prevenzione, quindi a fare delle indagini molto più serie, prima che succedano, infatti, si riesce anche a circoscrivere maggiormente i problemi e quindi avere anche dei risparmi in termini economici. Un altro aspetto importante, di cui purtroppo si parla poco, devo dire, è il problema dei monitoraggi. In tema di difesa del suolo e di pianificazione, la cultura del fare dei monitoraggi proprio a livello locale, quindi secondo noi dovrebbero essere data ai comuni, è una competenza che dovrebbero avere gli enti locali, i comuni, proprio perché conoscono meglio il loro territorio specifico. I quali enti locali però non di rado hanno delle responsabilità in eventi catastrofici che poi avvengono, nel senso che magari non hanno le competenze interne al comune, a volte c'è una certa malafede o una necessità di fare cassa, insomma bisogna anche controllarli in qualche modo. Questo non c'è dubbio, e qui se vuole ci riallacciamo all'altra parte del titolo del convegno di questi giorni, che era appunto pianificazione territoriale e difesa del suolo. La pianificazione territoriale è sostanzialmente in capo agli enti locali, pur con delle forme di controllo di enti gerarchicamente superiori, però sono i comuni sostanzialmente che fanno i piani regolatori o i piani strutturali operativi, come li chiamiamo, una nuova generazione delle leggi urbanistiche. E qui certamente va fatto un ragionamento che peraltro, non le nascondo, coinvolge anche i tecnici, perché non è che il piano regolatore lo faccia solo, certo lo adotta il Consiglio Comunale, lo fa il sindaco, però indubbiamente ci sono anche dei tecnici, ingegneri, architetti, geologi che collaborano ovviamente per gli aspetti tecnici, quindi anche una riflessione al nostro interno inevitabilmente va fatta. E vedo che tra l'altro l'avete indicata tra i temi del certo, convegno, una riflessione sulla professione. Non vogliamo essere autoreferenziali, perché non è questo il motivo, certamente vorremmo essere più ascoltati come categoria, e non mi riferisco esclusivamente agli ingegneri, perché il tema della difesa del suolo ovviamente interessa più competenze. Certamente credo che gli ingegneri siano tra i principali attori di questo, quindi attori nel bene e nel male di queste di questo tipo di competenze. Siete anche un po' un capro espiatorio facile, perché a volte cementificano, è colpa di questo. Ma io credo che le cause dei problemi legati alla difesa del suolo e al rischio sono tante. Certamente c'è stato negli anni un eccesso di cementificazione, tra l'altro proprio in sede di tavola rotonda, in questo convegno, abbiamo fatto una sorta di mozione per cui spingiamo perché si facciano delle scelte abbastanza precise in termini di pianificazione territoriale e urbanistica, cioè che si vada verso quella opzione zero, nel senso di non consumare più territorio agricolo e territorio che in questo momento fa parte comunque del territorio ancora integro, per quanto ce ne possa essere in Italia, e si facciano quindi delle politiche anche di scelte urbanistiche che siano indirizzate verso un restauro del territorio che c'è e verso interventi di riqualificazione. Mi riferisco per esempio alle periferie urbane piuttosto che ai centri storici. Ci sono delle tematiche che sono proprio molto attuali, per esempio il tema dell'housing sociale. Perché non premiare interventi che intervengano sull'esistente, sulla riconversione dell'esistente, piuttosto che per consentire ancora espansione edilizie che consumano territorio, che quindi poi provocano spesso problemi anche di tipo idraulico, di tipo idrogeologico. So già l'obiezione che viene fatta, i comuni soprattutto, non da oggi, negli ultimi 20-30 anni, hanno vissuto, le entrate principali dei comuni venivano proprio dagli oneri di urbanizzazione legate a nuovi insediamenti sia residenziali che produttivi. È chiaro che in un momento di crisi della finanziaria dei comuni non è facile dire rinunciate a fare però credo che sia una politica seria che deve essere fatta nell'interesse del paese, e quindi per esempio anche di fare scelte di investimento a livello nazionale che siano indirizzate in modo da aiutare questo tipo di scelte. Certo. Senta, in conclusione le volevo chiedere se in questo convegno, comunque in generale, tra di voi si è cominciato a discutere di quello che è necessario fare per affrontare quelli che sono ormai cambiamenti climatici abbastanza evidenti nel nostro paese, queste grandi piogge, questi picchi estremi di temperature. È un tema che state in qualche modo affrontando? Sì, diciamo che abbiamo cominciato a affrontarlo, anche se è un tema abbastanza articolato, perché è legato poi anche, per esempio, ai cambiamenti climatici sono anche legati problemi di inquinamento, quindi problemi di riduzione dell'inquinamento. È un tema abbastanza complesso che peraltro include molte competenze diverse. Un'altra considerazione da fare: se noi andiamo a vedere l'agenda della politica di qualsiasi politico, queste tematiche della difesa del suolo, della difesa raramente sono presenti, o comunque se sono presenti non sono mai ai primi posti, proprio perché in termini di immagini non pagano rendono direttamente. Però credo che come categoria, ma ecco, una cosa che mi piaceva sottolineare è che questo convegno, che è partito dal Consiglio Nazionale di Ingegneri e dal Centro Nazionale di Studi Urbanistici, però ha riunito attorno al tavolo anche tutta una serie di altre associazioni di estrazione diversa che comunque hanno a che fare con la difesa del suolo e con la pianificazione territoriale. Io credo che la strada da battere sia quella, auspicando ovviamente che non rimanga un caso isolato convegno, ma che poi ci sia un seguito. A questo proposito, proprio ieri il nostro Presidente nazionale, l'ingegnere Orlando, presente il rappresentante del Ministro dell'Ambiente che non è potuto intervenire, ha fatto una precisa proposta, diciamo, di una collaborazione molto più spinta, però mettere i politici nella condizione di poter fare delle scelte che siano più possibili oggettive e possibilmente basate sulle conoscenze scientifiche. Grazie mille della sua disponibilità. Ricordo l'ingegner Giovanni Montresor del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Per questa puntata di Respiro è tutto, l'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora. Grazie.